nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile di Maria Latella. Eccoci, buona domenica, bentornati a Nessuna è Perfetta, il programma di Radio 24 che parla alle donne che lavorano e anche a quelle che lavorano a casa con figli, mariti, parenti, anziani genitori di cui occuparsi. Insomma, l'universo femminile che, come sapete, è un caleidoscopio di cose che ci occupano soprattutto la mente. Vi capita mai di svegliarvi a metà della notte facendo l'elenco delle cose che dovreste fare il mattino dopo e senza avere nessuna voglia di accendere la lampada sul comodino e scrivervele? A me capita, a metà della notte c'ho tutto chiaro, tutto quello che devo fare: rimettere in ordine gli armadi, buttare i vestiti che non metto più, le scarpe che non metto dal lontano 1996 o che ho tenuto religiosamente, tutto chiaro a metà della notte. Poi mi riaddormento, il mattino dopo è un casino. Comunque, si chiama multitasking, è la fregatura più astuta creata per farci sentire in colpa e farci fare mille cose contemporaneamente. Lo sapete che da 5 anni è la nostra battaglia e a furia di battere gutta cavat lapidem, la goccia che scava la pietra, ebbene adesso c'è anche un libro che sostiene la nostra battaglia, un libro che si intitola per l'appunto Multitasking, no grazie, da perfetta tuttofare a felice imperfetta. L'ha scritto Chiara Cecutti e ne parleremo tra poco proprio con lei, che è una life coach, come si dice. Intanto però vi ricordo che all'828 12 12 potete lasciare i vostri messaggi, il vostro sfogo, se siete una multitasking che non riesce a liberarsi dalla schiavitù, bene, sfogatevi, così mi sento meno sola, essendo io una che teorizza e poi pratica malissimo. Ma prima di parlare di multitasking, perché è il tema di questa puntata e di come si può riuscire anche a evitarlo, beh, fatemi dire una cosa che mi ha ancora una volta suscitato qualche pensierino e qualche sorriso. Sapete che a Parigi ci sono tra poco le elezioni per il sindaco. L'attuale sindaco è una donna, Anne Hidalgo, socialista. La sua competitor, che sta crescendo nei sondaggi, è Rachida Dati, l'ex ministra della giustizia ai tempi di Sarkozy. E poi c'era un uomo, un competitor, che era il candidato di Macron del partito En Marche, Benjamin Griveaux, un politico giovane, sposato, padre di 3 figli, molto vicino al presidente della Repubblica. Ebbene, che è successo? È successo che Benjamin si è messo a mandare dei video porno, naturalmente, a una sua amante. E poi, come succede, purtroppo pare essere una cosa piuttosto popolare, al punto che sto quasi pensando di dedicare una puntata di Nessuna Perfetta a questa forma di secondo me di autolesionismo. Ma insomma, comunque Benjamin mandava questi video porno alla sua amante dell'epoca, poi si sono lasciati e l'amante si è messa con un altro e quel video è finito, è diventato virale. Che è successo? Che Benjamin Griveaux ha fatto giustamente un passo indietro, non so che cosa sia successo tra le pareti di casa sua, però pubblicamente ha rinunciato a correre come sindaco di Parigi. E chi è stata chiamata a metterci una pezza, come si dice a Roma? Ma una donna, naturalmente, una ministra, una donna diciamo di mezza età, solida, Agnès Buzyn. E succede sempre così. Succede che nei momenti di disagio, quando non si sa che pesci prendere, si va da una donna e le si chiede l'estremo sacrificio, perché Agnès Buzyn corre, ma certamente non vincerà. Comunque un risultato c'è, sono 3 donne a disputarsi la prestigiosa poltrona di sindaco di Parigi. We'll be right back. torniamo ai nostri, anzi ai vostri messaggi vocali 828 12 12. Ecco quelli che ci avete mandato sulla puntata della settimana scorsa. A proposito di tempo e di confini, di lì non si passa. Per me le ore di danza due volte a settimana sono fondamentali, pur essendo una donna adulta, grande, ma sono essenziali per sentirmi bene. E un consiglio per tutte le donne che vogliono prendersi più tempo per se stesse, pianificare quel tempo per tempo ed evitare quindi che si riempia l'agenda solo di cose che poi sono necessarie come mamma per lavori, e quindi è necessario che quel tempo lì ce lo ricaviamo. E al tempo che non è mai sufficiente, era proprio dedicata alla puntata della settimana scorsa, come ritagliarsi il tempo e non farsi mai venire il senso di colpa del no, non vado a fare un'ora in palestra perché devo fare la spesa. La nostra ascoltatrice giustamente ci ricorda che vanno difesi questi tempi, ma non è la sola. Sentite che cosa ci è arrivato anche quest'altro messaggio. Io non prendo mezz'ora di tempo per me alla settimana, prendo due ore al sabato e dipingo su ceramica, mi trovo con altre amiche che hanno la stessa passione, chiacchieriamo e passiamo due orette così. Parliamo di tutto, da quello che può essere il tempo, da quello che possono essere i nostri mariti, i vari problemi della vita, le cose che succedono e passiamo bene, due ore tutte per noi. Meraviglioso, due ore a dipingere e a parlare di sé con delle amiche. Beh, c'è qualcosa di più rilassante? Vi viene in mente qualcosa di più rilassante? Se vi viene in mente, sempre lì siamo, 828 12 12, fatemelo sapere. Però a proposito di tante cose da fare, di tempo che viene ristretto, di tempo che dovrebbe essere elastico e poi non lo è, ebbene, lo diciamo da 5 anni, lo ripetiamo, fare troppe cose, farle tutte insieme fa male, fa proprio male al cervello. Guardare le mail, telefonare e intanto scrivere la lista delle cose da fare, oppure peggio ancora controllare l'ultimo tweet mentre si sta guidando. Tutto ciò fa male al cervello, che va in tilt perché non è in grado di gestire parallelamente due cose sulle quali c'è bisogno di concentrazione, anche se noi pensiamo di sì, perché ci sentiamo super donne e pensiamo che si possa fare tutto, e guardiamo anche con un po' di sufficienza, no? Ai nostri compagni, fidanzati, mariti, anche colleghi di lavoro che fanno una cosa sola per volta. Ma ci avessero ragione loro? Pensate che un neuroscienziato dell'Università della California, San Francisco, sostiene, Adam Gaisley si chiama, sostiene che a livello mentale il multitasking non esiste, perché il cervello non è in grado di gestire, dice lo neuroscienziato della California, non è in grado di gestire in parallelo due compiti diversi, soprattutto quando questi comportano, richiedono una certa attenzione. Spingere il nostro cervello in questa direzione ha un costo. La concentrazione si interrompe e la mente diventa ancora più sensibile alle distrazioni. Parlando di multitasking, diciamo sempre che è la grande fregatura per le donne che si accollano 4, 5, 6 cose contemporaneamente cercando di farle bene tutte e senza riuscirci. Però vorrei sentire anche l'opinione di un uomo, perché il multitasking non sarà proprio solo una prerogativa femminile. Chissà che ne pensa il direttore di Leggo, Davide Desario. Buona domenica, Davide. Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Che ne penso? Che è un grande guaio. Sì. È un grande guaio perché soprattutto l'aspetto tecnologico era nato per, secondo me, migliorare la vita delle persone, ma andava gestito con intelligenza. Purtroppo molti di noi forse non sono all'altezza e quindi ci ritroviamo, invece che avere più tempo, ad occupare il tempo libero che ci è stato, diciamo, garantito dalle novità tecnologiche con altre cose. Il risultato è devastante. Dopodiché le donne donne che, come ci è sempre detto, sono più brave in questo degli uomini, perché sono abituate proprio storicamente, non so se geneticamente, ma sicuramente a fare più cose contemporaneamente degli uomini, secondo me si salvano un po'. Gli uomini che non erano abituati sono in perfetto stato confusionale. Un attimo di pazienza, Davide Desario, torniamo subito da te. Nessuna è perfetta. Eccoci di nuovo con Davide Desario, direttore del quotidiano Leggo. In una redazione di un giornale come quella di Leggo, ma tu sei stato per molti anni anche al Messaggero, capita a tutti un po' i giornalisti di fare due cose contemporaneamente, telefoni per avere una notizia e contemporaneamente però guardi sullo schermo se ne stanno arrivando altre con le agenzie, eccetera. Come è cambiata? Come è cambiato il rapporto col multitasking, come vedi, nei tuoi giornalisti? Perché poi i giornalisti sono pure padri, madri, devono occuparsi dei compiti a distanza dei figli, cioè come vedi cambiato il mondo delle redazioni? Vedo sempre delle scene sempre più incredibili, nel senso che nelle redazioni, soprattutto web, si lavora con tre schermi davanti, uno che è quello dell'editing, l'altro è quello con un televisore, con le trasmissioni in real time appunto per seguire quello che sta accadendo in diretta, la terza è quella con le agenzie stampa, le fotografie e via dicendo, quindi una persona già normalmente lavora su tre schermi, poi ovviamente c'è il cellulare che squilla, le notifiche che arrivano, la mancanza di galateo nella gestione delle chat, soprattutto di WhatsApp, persone che ti mandano per dire una cosa ti mandano sette messaggi, cominciano con ciao e ti arriva la prima notifica, poi ti mandano la seconda notifica con come stai, la terza notifica che incominciano a dire quello che ti vorrebbero dire, fin quando dopo due secondi ti scrivono l'hai letto, cioè, e tutto queste sono sollecitazioni che si aggiungono ovviamente a quello del lavoro e si aggiungono a quello della vita quotidiana, quindi ho un collega che vede la bambina su uno schermino in collegamento Skype per salutarla quando ritorna da scuola, ma nel frattempo sta gestendo anche tante altre cose. Ho una collega che ha tre figli e che ovviamente viene sollecitata da quelle che sono le evenienze della vita, quindi un bambino che sta male a scuola, che lei deve gestire le mille operazioni, quindi chiamare o la colf o la nonna per cercare di, come dire, risolvere l'emergenza, sì, mentre lei comunque è in ufficio e sta magari seguendo una notizia importante. Cioè è un mondo in continuo cambiamento e dove l'uomo sta cercando di rincorrere una situazione che secondo me è irraggiungibile. Davide Desario, nel salutarci, tu che trucco adotti per quando il multitasking comincia a essere ingestibile, cosa fai? Respiri, esci a prendere una boccata d'aria, come ti decomprimi? Allora, io da due anni ho tolto la suoneria al telefono, quindi che cerco di essere attivo, sono io che guardo il telefono e non il telefono che chiama me. La seconda cosa è quella che hai detto, cioè ogni tanto io non fumo, non bevo, ahimè faccio poco sport, però ogni tanto mi dedico a una passeggiata, che sia anche fuori dall'ufficio, o nel mio caso nel centro di Roma, esco 10 minuti e proprio stacco gli occhi e le orecchie da tutto quanto per cercare anche di rimettere in ordine tutte queste sollecitazioni che a volte si sovrappongono e magari ti mettono davvero in difficoltà. Invece una passeggiata, anche un banale giro del palazzo aiuta. Questo è un ottimo consiglio e grazie Davide Desario per averlo condiviso con noi. Buona domenica al direttore di Leggo, grazie per essere stato con noi di Nessuno è Perfetto. 828 1212 e dopo l'intervento del direttore di Leggo Davide Desario vorrei sapere da voi come vi decomprimete. Davide Desario si fa una passeggiata attorno al palazzo nella redazione del quotidiano che dirige, e voi? 800 28 12 12, fatemi sapere che cosa fate. Settimana prossima, domenica prossima, ascolteremo i vostri messaggi. Indovinate un po', ma sì, è il momento della Sunday Girl. E la nostra Sunday Girl, benvenuta, è Levante, Levante che reduce dal successo del Festival di Sanremo 2020. Buona domenica. Buona domenica. E già al lavoro perché comincia il tour in Europa per il nuovo disco Magma Memoria. Che vuol dire Magma Memoria? Magma Memoria, io ho trovato finalmente una parola che potesse descrivere i miei ricordi e la funzione anche dei miei ricordi, perché nel ricordo vedo qualcosa che brucia come una sorta di magma, no? una qualcosa che dentro di me bolle e ribolle, che non smette mai di rimanere in attività in qualche modo, e dunque ho coliato questa parola, questo neologismo che appunto è come una sorta di nostalgia, mettiamola così, però non mi andava di chiamare il disco Nostalgia. No, una energetica come Levante, no, Nostalgia non la vedo proprio. E allora ho parlato di il Magma Memoria, questo luogo in cui i ricordi sono sempre in fermento, è il passato che è sempre presente e che poi diventa una sorta di bilancio per il futuro. Ecco, il bilancio del futuro è una previsione, no? Parte però dall'analisi di quello che è stato finora il passato e il presente. Insomma, Levante, per farla breve e non filosofeggiare troppo, che tipo sei? Vivi nel presente? Ti proietti nel futuro? Stai a guardare molto e analizzi il passato? Che tipo sei? Allora, sono sicuramente sono molto molto presente, nel senso che sono presente a me stessa nel tempo in cui vivo, nello spazio in cui vivo, però tengo spesso per mano il passato, ma perché per me è una necessità il fatto, per esempio, di non ripetermi negli errori. Cercare di modificare le cose che di me non sono andate bene, non mi sono piaciute, e poi essere qualcosa di diverso nel futuro. Quindi credo che veramente lo sia per tutti necessario il passato, no? È come dire, come si fa a tagliare i ponti con chi si è stati? È importante ricordare chi si è stati per essere qualcos'altro o continuare ad essere quello che si è stati se ci si piace ancora. Com'è la tua vita mentre registri un disco, oppure mentre ci sono delle pause, no, nella vita, non sei sempre al lavoro, come scorre il tuo giorno normale? Purtroppo, Maria, ti devo dire che io sono sempre al lavoro, nel senso che amo quello che faccio, quindi quando mi capita di registrare i dischi, scrivere canzoni o libri, come è già successo, ovviamente sono totalmente concentrata e assorbita. Quando smetto di fare di registrare o di scrivere, comunque mi do da fare per il lavoro successivo, perché è poi la vita quella che mi in qualche modo ispira ed è una sorta di fonte creativa. Sono sempre lì alla ricerca di nuovi stimoli, e dunque anche quando sono in vacanza, momenti rari e che so vivere in maniera molto molto molto breve, cerco sempre qualcosa da mettere nero su bianco o da poi da ritrovare nella musica. Questi hanno una difficoltà, no, spesso a rapportarsi con le cose pratiche. Tu vai mai a fare un bollettino postale, un MAV? Io lo odio, per fortuna adesso c'è tutto, si può fare tutto digitalmente, online, quindi va bene. Però si rompe la lavatrice, chi se ne occupa? No, guarda, io sono una donna, anche una donna di casa incredibile, quindi dalla mensola, il trapano, i muri, aggiustare quello e quell'altro, sono assolutamente esercitata. Ah, e quindi sei brava manualmente? Sì, fortissimo, fortissimo, mi piace tantissimo. E poi anche, anche per le cose più burocratiche, ecco, mi occupo anche di quello, quindi da andare a pagare le multe alla posta, perché ne prendo parecchie, alla spesa, sono sempre io, sì, sì, sì, sì. Quindi il rapporto col multitasking Levante è un rapporto, diciamo, piuttosto intenso, perché fai tre cose contemporaneamente oppure no? Quando scrivi, scrivi, quando stai pensando al prossimo disco ti concentri su quello, quando monti la mensola che si è rotta in cucina ti concentri solo su quello. Che tipo sei? Diciamo che riesco a mantenermi su vari come dire, spazi contemporaneamente, nel senso che la concentrazione per me è molto difficile da trovare, quindi mentre sto trapanando il muro per la mensola, magari sto anche pensando al capitolo del libro che devo terminare. Quindi sei proprio irrimediabilmente multitasking. Brava, la parola è irrimediabilmente. L'ultima cosa, Levante, ho una curiosità. C'è una canzone, un brano musicale al quale sei particolarmente legata e magari che ti piaceva ascoltare insistentemente quando avevi 15 anni? Sai quei brani che poi ti rimangono? Io ce n'ho uno che è Horse with No Name degli America, per me è la canzone, no, della vita. Qual è la tua? Io ne ho tante, devo essere sincera, però ce n'è una che mette in pace ogni aspetto di me, di Barry White, si intitola You Are My First, My Last, My Everything, ed è spettacolare, mi fa pensare alla mia infanzia, ma anche a quello che è arrivato dopo la mia infanzia, tutti i miei ricordi, visto che appunto parliamo di memoria, e poi mi fa ballare tantissimo. Ah beh, allora se ti fa ballare noi non possiamo non metterla, finiremo proprio così, cara Levante, ballando con te e con Barry White. Buona domenica! Grazie a voi! perfetta. E dunque dicevamo del danno che secondo il neuroscienziato Adam Gassly dell'Università della California viene prodotto al nostro cervello, e quando si parla di cervello e di danni, noi abbiamo la nostra dottoressa Alessandra Bizzarro, neurologa del Policlinico Gemelli di Roma, e a voi ascoltatori e ascoltatrici Nessuna è Perfetta ben nota. Eccola, buongiorno, buona domenica dottoressa Bizzarro. Buongiorno a lei dottoressa. Allora, la tecnologia è all'origine della gran parte della nostra distrazione e dei danni anche neurologici che questo produce? Diciamo che c'è sicuramente un grande impatto della tecnologia su alcuni aspetti che riguardano il cervello e i processi cognitivi, senza demonizzare eccessivamente ovviamente l'utilizzo, l'avvento della tecnologia, però bisogna fare alcune distinzioni, soprattutto bisogna distinguere tra l'uso e l'abuso, e quindi questa distinzione che insomma è la base per tante abitudini dell'uomo, in questo caso specifico è molto insomma diventa molto importante ancora di più su quel che accade al cervello, fermo restando che ovviamente ci sono anche delle grosse differenze tra noi, mi riferisco a me, alle persone diciamo più o meno della mia età, che non nasciamo cosiddetti nativi digitali, e tra le generazioni che invece sono considerate nativi digitali. Dottoressa, nella nostra giornata, secondo lo studio della Harvard University, nell'arco di un giorno, appunto, veniamo distratti da pensieri erranti in 47 diversi momenti, cioè su 100 momenti in 47 siamo distratti. C'è un modo, c'è la possibilità di riabituare il nostro cervello a vivere il momento presente? È sicuramente un obiettivo molto molto interessante e molto corretto, e sarebbe buona cosa metterlo in pratica, però ovviamente il fenomeno della distraibilità è costante ed in costante aumento, perché siamo in realtà bombardati da stimoli che non sono solo tecnologici, ma nei quali la tecnologia ovviamente fa gran parte di tutto questo. Non c'è persona che mentre parla, semplicemente colloquia con un'altra persona, non stia nel contempo anche guardando il cellulare, come se fosse veramente un appendice del nostro cervello, e questo incrementa tantissimo la distraibilità. La maggior parte degli studi per esempio sono fatti su livello di distraibilità durante la guida, che si è estremamente incrementato, e questo perché sottoponiamo il nostro cervello contemporaneamente a più stimoli che spesso interessano canali sensoriali diversi, come può essere l'elaborazione uditiva rispetto a quella visospaziale o visopercettiva, per cui questo ovviamente sovraccarica tantissimo il cervello e determina una condizione di base di distraibilità che poi si esplicita anche in tante altre attività della vita quotidiana. Sfido chiunque di noi ad arrivare a sera e non avere almeno un paio di volte la difficoltà a trovare la parola per dire qualcosa. A me capita spessissimo con i miei figli di sbagliare il termine per indicare un oggetto che stanno cercando e non trovare la parola. E questo da che cosa è prodotto, dottoressa? Questo è prodotto da un sovraccarico di stimoli spesso che necessitano di una elaborazione simultanea, che sarebbe la base del multitasking, che in realtà è un inganno che noi facciamo, come ho già detto altre volte, al nostro cervello, perché il nostro cervello non è strutturato per espletare un multitasking. Il nostro cervello è diciamo organizzato per elaborare uno stimolo per volta, soprattutto se gli stimoli, come dicevo prima, appartengono o hanno necessità di un'elaborazione attraverso canali sensoriali e vie diciamo percettive che sono differenti. Per cui quando noi lo esponiamo quotidianamente a questa necessità di elaborazione costante e simultanea di stimoli, andiamo incontro a un fenomeno che si chiama esauribilità attentiva, che poi è alla base della distraibilità e che diciamo, non solo si esprime come difficoltà di tipo cognitivo, quindi come difficoltà a rimanere attenti, a trovare un termine, a rimanere concentrati sul discorso, ma si esprime anche come evento emotivo, nel senso che c'è anche una percezione personale di stress che poi ha una ricaduta ancora negativa su quelle che sono le nostre prestazioni, quindi un circolo vizioso poi estremamente dannoso. E anche negli studi di genere che sono stati fatti, sa, adesso la medicina di genere va molto, insomma, va per la maggiore, le differenze tra soggetti di sesso maschile e soggetti di sesso femminile sono state, diciamo, analizzate. È vero, dottoressa, che noi donne tendiamo a fare più cose contemporaneamente? Allora, sicuramente la nostra struttura la nostra struttura cerebrale è organizzata in una maniera in cui le connessioni tra emisfero destro e emisfero sinistro sono maggiormente rappresentate, e questo fa sì che la capacità di elaborazione di più stimoli sia sicuramente facilitata. Ma mentre è vero che appunto noi siamo in grado di fare questo con, se vogliamo semplificare il concetto, con una facilità maggiore rispetto agli uomini, è anche vero, questo è stato dimostrato da studi recenti, che però le donne sperimentano un maggiore stress rispetto a questa modalità di gestione della quotidianità, di gestione dello stimolo. Quindi le donne sarebbero per certi versi più capaci di effettuare compiti multitasking, sempre nei limiti della reale capacità del cervello di fare questo tipo di compito, ma sperimentano una maggiore sofferenza, un maggiore stress rispetto a questa diciamo, modalità di gestione della quotidianità. Quindi alla fine comunque non va bene, comunque non si certo, fa del bene. No, infatti noi lo diciamo da 5 anni, no, al multitasking. L'ultima cosa da non addetta ai lavori, so di dire una bestialità, ma mi viene in mente e glielo chiedo. C'è per caso qualche studio che ha messo in relazione lo stress di cui lei parlava, dottoressa, cioè il fatto di sovraffaticare il cervello pensando a tante cose contemporaneamente, e l'Alzheimer, di cui, se non ricordo male, mi pare che ci sia una presenza lievemente superiore nelle donne piuttosto che negli uomini? Allora, la malattia di Alzheimer ha una maggior frequenza nelle donne, in particolare quando c'è la caduta degli estrogeni, che sono finché presenti ovviamente sono protettivi anche per le patologie neurodegenerative. Ci sono sicuramente degli studi che mostrano che l'esposizione a stress di qualsiasi tipo può diciamo accelerare un processo neurodegenerativo, però che ne sia alla base dal punto di vista neurobiologico questo ancora non è stato provato. È vero che ci sono tanti studi che stanno già dimostrando dal punto di vista neurofisiologico e di radiologia funzionale con le risonanze magnetiche funzionali che ci sono di fatto delle modificazioni quantificabili e diciamo documentabili del cervello in rapporto all'esposizione al multitasking cronico, che c'è anche che ci sono eccessi, per dire, di ormoni dello stress come il cosiddetto cortisolo, però ancora una relazione strettamente neurobiologica, o se vogliamo più propriamente di causa-effetto, tra l'insorgenza di una malattia neurodegenerativa come la malattia di Alzheimer e l'esposizione a questo tipo di lavoro cerebrale non è stata ancora dimostrata. Grazie alla dottoressa Alessandra Bizzarro, neurologa del Policlinico Gemelli di Roma, con la quale abbiamo parlato degli effetti del multitasking sul nostro cervello. Buona domenica, grazie. Grazie a lei, dottoressa, arrivederci. Nessuna è perfetta. Ultima parte di Nessuna è perfetta, e siccome da 5 anni conduciamo la nostra battaglia contro il multitasking, beh, non possiamo che essere contenti di vedere che sul nostro terreno, sul nostro tema, è arrivato anche un libro. Si chiama Multitasking, no grazie, da perfetta a tutto fare a felice imperfetta. È un libro pubblicato dalla casa editrice Oepli, e noi abbiamo in collegamento con noi l'autrice Chiara Cecutti, life coach e counselor, per appunto dare maggior potere alle donne. Buona domenica, Chiara Cecutti. Buona domenica, grazie per l'invito. Allora, il multitasking è una fregatura, è il nostro slogan, il nostro claim da 5 anni. Anche per lei è una fregatura? Assolutamente, uno dei capitoli si intitola proprio così e il libro vuole sostenere questo. È scritto appositamente per sostenerlo, anche se in modo naturalmente ironico, però il concetto è assolutamente centrato. Quanto vi ha ispirato il nostro programma, la nostra trasmissione? Tantissimo, tantissimo. Ad un certo punto mi sono detta, bisogna raccogliere un po', tirare le fila di tutta questa cosa, e credo che sia veramente molto importante diffondere questa cultura, perché in realtà quello che ho scoperto scrivendo il libro e anche poi, diciamo, in questi giorni dal momento in cui è stato pubblicato, è che le maggiori resistenze le facciamo noi donne a lasciare andare questo multitasking e soprattutto a lasciarlo andare per recuperare del tempo per noi, come se non ne avessimo diritto, insomma. A quali conclusioni è arrivata scrivendo il libro, appunto, che si intitola Multitasking No Grazie? Beh, innanzitutto che la gabbia nella quale stiamo noi donne multitasking o ex multitasking, perché insomma è stato un po' un percorso, no? anche per me, anche per gestire diversamente le tante cose che faccio, però la vera conclusione è che la gabbia ce la creiamo noi, e quindi prima di tutto il libro propone un percorso, per quanto appunto simpaticamente, quindi trattando temi seri però in modo anche ironico, un percorso di consapevolezza in cui renderci conto di quanto siamo ingabbiati in una serie di stereotipi che addirittura, più che stereotipi, ci sembrano delle verità assolute. E questa è la cosa che mi colpisce di più e che mi ha colpito di più anche parlando con le donne che ho intervistato proprio e citato poi all'interno del libro. Quindi credo che la sfida sia questa. Quando mi chiedono ma è un libro da consigliare agli uomini, bah, io dico tutto sommato occupiamoci prima di noi. Di noi. Come si passa dall'essere una perfetta tuttofare a essere una felice imperfetta? E anche qui torna il titolo del nostro programma, Nessuna è perfetta. Com'è questa evoluzione? Come ci si è arrivata? Ci racconti? Allora, innanzitutto bisogna acquisire consapevolezza, cioè gli step per il cambiamento sono sempre consapevolezza, comprensione, quindi delle motivazioni che ci portano ad agire in un certo modo, e poi l'azione, quindi cambiare i comportamenti. Ma per cambiare i comportamenti bisogna cambiare qualche cosa nella nostra mente. Quindi la prima cosa è comprendere quali sono i motivi che ci portano a sovraccaricarci di multitasking, a farci in 18. Le motivazioni possono essere diverse. Per alcune senz'altro è la tendenza alla perfezione, ma che cosa c'è dietro a questa ricerca di perfezione? Questo è il punto, bisogna andare a capire che cosa lo genera. Possono essere i sensi di colpa, possono essere la competizione, possono essere un problema, un tema di autostima, quindi tante cose diverse che producono appunto questa tendenza. Quindi la prima cosa è comprendere che cosa ci spinge ad agire in questo modo. Capito questo, si apportano i correttivi e quindi poi si può lavorare anche sulla nostra agenda. Bene, e l'ultima cosa che voglio chiedere a Chiara Cecutti, life coach, autrice di Multitasking No Grazie, da perfetta tuttofare a felice imperfetta, è se poi nella pratica quotidiana un po' di sovrapposizione di cose, un po' di multitasking, lei è riuscita a eliminarla. Sicuramente, ho ragionato molto sulle mie priorità, ho capito che comunque la perfezione non è necessaria in tutti i campi, non in tutte le cose, non sempre, in alcune magari sì, in altre no, però io credo che il tema vero sia proprio le priorità, capire che cosa è davvero importante per noi e soprattutto considerare che ci meritiamo un po' di realizzazione personale, al di là sicuramente della famiglia, al di là anche del lavoro, che non sempre magari il lavoro che ci piace o che ci piacerebbe in assoluto fare nella vita, però comunque trovare uno spazio, poter arrivare a sera e dire oggi almeno una cosa per me l'ho fatta, questo credo che sia un qualche cosa che possiamo inserire nella nostra vita. Eh beh, insomma, l'abbiamo detto all'inizio, dopo 5 anni di lavoro incessante ogni domenica, la nostra campagna contro il multitasking ha trovato anche una testimonial, Chiara Cecutti e il suo libro, che diventa a questo punto proprio il primo libro ispirato da Nessuna è Perfetta. Grazie, buona domenica Chiara Cecutti. Grazie. Grazie, buona domenica. Come sempre, Nessuna è Perfetta si chiude con un sorriso sempre nel solco delle cose di cui ci occupiamo qui. A Nessuna è Perfetta, vale a dire le donne. In questo tempo dell'anno si parla di moda e Milano, lo sapete, il centro della moda è stato in questi giorni. C'è una riflessione di Luciana Littizzetto che vogliamo condividere con voi. Allora, c'è stata la settimana della moda, c'è stata la Milano Fashion Week. Sì. Tu non lo sai che nella settimana della moda a Milano si cospargono, credo, di attack e poi si scagliano dentro l'armadio e si mettono delle cose a vanvera. Ma io ho l'ufficio nel centro del quartiere dove fanno tutte le... E l'hai viste? Ho visto delle persone, cioè, molto, ma delle strane, cose che non... molto strane. Ma manco a carnevale, cioè sì. Carnevale, se vai vestito da Zorro, sì, con la gonna lunga, i tacchi e le antenne da formica, ti pigliano per il culo. Ma nella settimana della moda ti ammirano. Sì, sì, sì, sì. Ma che bello, ma che bello. E la stessa, io vorrei una branca nuova della buon costume che girasse con degli specchi enormi in giro per Milano a dire: hai visto come ti sei vestito? Vai a casa a cambiarti subito, se no ti arresto per oltraggio. Beh, ma perché la moda è provocazione. Grazie per averci seguito anche questa domenica. Nessuna è Perfetta. Avete visto che dopo 5 anni c'è chi, ispirandosi proprio ai temi e al titolo della nostra trasmissione, ci ha scritto sopra anche un libro, rivelando appunto che la battaglia contro il multitasking è diventata ormai una condivisione comune. Siamo contenti di essere stati nel nostro piccolo anche di aiuto a prendere diciamo una posizione sul tema, e invece su tutte le altre cose, dalla politica all'attualità, ci ritroviamo domattina, se vorrete, dalle 8:20 con Simone Spezia, 24 mattino. Buona domenica, ciao!